America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Letteratura italiana, libri, produzione letteraria. Beh, sappiamo che l'editoria sta vivendo un momento di crisi, però c'è un avamposto che resiste in America a New York, e cioè l'avamposto della Rizzoli, che ha un negozio, una libreria storica, una libreria dove io mi ricordo anni fa si andava quasi da Carbonari. Quando dico anni fa voglio dire anche qualche decennio fa, quando non esisteva internet e quando i giornali dall'Italia arrivavano la sera, e allora Ugo Stille, Gaetano Scardocchi andavano tutti alla libreria della Rizzoli per prendere i giornali che erano appena arrivati e leggersi che cosa si era detto in quella giornata. Ecco, questo aspetto romantico è purtroppo o per fortuna finito, per fortuna perché poi le cose vanno avanti, ma io ho qui con me i microfoni di America 24 Marco Ausenda, che è il presidente della Rizzoli Corporation USA. Buongiorno, buongiorno. Dottor Ausenda. Allora, buongiorno. Beh, intanto lei si ricorda quando si andava un po' da Carbonari nel negozio, e quello ancora della Quinta Strada? Sì, della 57, 712 Fifth Avenue. Poi negli anni 80 ci trasferimmo a 31 West 57esima, che è a due isolate di distanza. Ecco. Io ero ragazzo e anch'io andavo a prendere il Corriere e a guardare ammirato i grandi giornalisti. Ecco, noi abbiamo parlato un po' di letteratura italiana. Intanto ci dica, quali sono gli italiani, gli autori italiani che vendono meglio? Ma vendono, ci sono degli autori italiani che fanno prese? I libri americani in Italia fanno sempre gran successo, e il viceversa? Pochi ma buoni. Grande Italo Calvino prima di tutti, Umberto Eco in continuazione. Noi come Rizzoli stiamo per pubblicare fra qualche mese un bellissimo libro metà illustrato e metà di grande saggistica, che si chiama Fantasy Land, in italiano sarà Terre Immaginarie, straordinario, in cui Eco immagina molto di più e molto al di là di quello che si è inventato Tolkien. Oriana Fallaci ha vissuto a New York 20 anni, ne ha fatto la sua capitale, l'ha cantata in modo drammatico e molto emozionante dopo l'11 settembre, ha scritto molto a New York ed è molto molto letta ancora oggi dal pubblico americano. L'edizione inglese di The Rage and the Pride, La rabbia e l'orgoglio, ha venduto 100.000 copie. La colonna sonora di Manhattan di Woody Allen, sembra che ci sia una scena, almeno così abbiamo trovato su internet, girata nella libreria. Ecco, perché voi avete questa libreria, a un certo punto ne avevate addirittura 14, ce n'era una anche al World Financial Center, una molto bella, poi avete ridotto il numero, e adesso in che situazione siete? Riuscite a sopravvivere? Che qui chiudono le librerie. In grande ripresa, molto interessante, le librerie chiudono perché sono soppiantate dall'ebook, però alcune rimarranno, e rimarranno solo le più belle, quelle più in grado di specializzarsi, fra cui le librerie di libri illustrati. La nostra di New York è la più bella libreria di libri illustrati nel mondo e sta diventando un modello per tutti. Ecco, libri illustrati, spieghiamo, perché sono i coffee table book, quelli che in America si chiamano i coffee table book, sono questi enormi volumoni con queste copertine rigidissime, tutti super plastificati, patinati, quasi degli oggetti. Sono degli oggetti, ed è per questo che grandi libri illustrati, ed è per questo che non possono essere soppiantati dalla tecnologia. Una versione in app o in ebook di un grande libro illustrato ha senso, ma è un'altra cosa, non è un oggetto, non lo puoi mettere sul coffee table. Finché in casa di qualcuno ci sarà un coffee table, ci sarà un coffee table book. Chi sono i vostri clienti? Mi sembra che sia frequentata molto da un pubblico anche internazionale, la sì, vostra libreria. La libreria è frequentata più del 50% visitatori stranieri. Una persona molto affluente che vive in India o in Brasile e che vuole arredare la sua casa in modo eccezionale non trova nel suo paese d'origine una libreria adatta, viene a New York e ci viene a visitare. La grande crescita dell'economia del terzo mondo sta riflettendosi con un grande successo per noi, perché siamo quelli che possono dare l'ispirazione necessaria. Quindi New York un po' sempre il centro alla assolutamente fine. Sempre il centro. Il presidente Mubarak, quando veniva a New York per le riunioni delle Nazioni Unite, prenotava la libreria per 3 ore, veniva chiusa per lui, arrivava con il servizio segreto, stava per 3 ore, guardava tutti i libri che noi avevamo in esposizione, soprattutto nel settore in moda, architettura, interior decoration, viaggi e così via, e con comprava 20-30 mila dollari di libri in poche ore. Per noi era una gran gioia. Can you please tell me that you don't mind if I... Falling in Love, Robert De Niro, Meryl Streep, giovanissimi. Vi consiglio di rivedere questo film che è molto romantico e soprattutto ci porta indietro nel tempo, ambientato anche nella libreria Rizzoli, dove a un certo punto c'è una scena chiave in questa romance fra i due. Siamo con Marco Ausenda, presidente Rizzoli America, ai microfoni di America 24. Scusi, una curiosità, ma vi manca Mubarak? Ci manca molto. Per fortuna ogni tanto arrivano dei personal shopper che non rivelano i nomi dei loro clienti e che comprano appunto libri per 5-10 mila dollari alla volta, e sappiamo che dietro di loro ci possono essere delle grandi personalità o delle celebrities. Ecco, come nasce un film in una libreria? Lei sa la storia di questo film? Vi hanno avvicinato? Hanno deciso di fare questo film da voi? Sì, spesso ci succede. Molto spesso ci chiedono, anche per esempio Sex and the City, ci chiesero se potevano girare una puntata nella libreria, ne abbiamo discusso a lungo, poi non si trova un accordo. Per noi chiudere un giorno intero per consentire le riprese vuol dire rinunciare a una certa quantità di ricavi, e quindi chiediamo un corrispettivo. Lì non si trova un accordo, ma è sempre interessante vedere quanto è importante la libreria. Sta crescendo. Di recente la Fitopost ha postato un bellissimo filmato su di noi. Ecco, scusi, una libreria a Milano, una libreria in Italia della Rizzoli e addirittura 3 punti vendita a New York. Come mai questo squilibrio? Il mercato è senz'altro più ricco e più importante e in maggior crescita negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi economica. Il nostro è un libro di moda, un libro di architettura, un libro di interior decoration. Per esempio il real estate, l'immobiliare deve essere in grande ripresa, cosa che non è in Italia, mentre lo è negli Stati Uniti. Quindi 3 punti vendita a New York, abbiamo aperto a Città del Messico, a Toronto, a Miami e a Londra. A Milano c'è la storica Libreria Galleria, che è una bellissima sezione di libri illustrati che si chiama L'Ottagono, una grande sala tutta dedicata, con una sezione solo per Rizzoli New York. Il futuro per noi è una grossa ripresa delle librerie di qualità. È la risposta dei librai che sopravviveranno all'invasione dell'ebook. Beh, diciamo il lusso, perché alla fine si parla poi di lusso, si parla di un prodotto che costa caro. Quanto costa un libro, diciamo un coffee table book? Di norma sopra i 35 euro e 50 dollari. Quanti ne fate in un anno? Perché siete, mi pare, uno dei più importanti editori del coffee table book, o sbaglio? Sì, Rizzoli USA ne pubblica 150 all'anno, Rizzoli Italia in italiano 40 titoli all'anno. Col fatturato tra l'Italia e gli Stati Uniti siamo sui 50 milioni di euro. E la concorrenza? Taschen in Germania, con grande peso internazionale, Faydon e Thames & Hudson in Inghilterra, Abrams negli Stati Uniti. Siamo più o meno testa a testa, ma credo che sia il numero di titoli che ho fatturato siamo leggermente superiori. Ecco, volete aprire altre librerie, ma qui mi sa che rischia che voi restate l'unica libreria aperta a New York, sì, o no? Il nostro claim presto sarà: venite a visitare Rizzoli sulla 57esima, l'ultima libreria di New York, perché le librerie di catena sono in grave crisi a causa dell'ebook. Ha chiuso Borders, 500 librerie, e Barnes & Noble non sta bene. Ne sopravviveranno poche, ma sopravviveranno quelle che saranno anche buone. Noi abbiamo scelto una linea che è quella dell'Italia, quella del lusso e quella della grande qualità, ed è su questo che stiamo puntando e su questo penso riusciremo a vincere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo visto come la libreria Rizzoli sia ormai diventato uno dei punti di riferimento per chi viene a visitare New York, e quindi restiamo nella grande mela con questa bellissima canzone che Billy Joel ha dedicato a New York e ai suoi simboli, di Billy Joel, New York State of Mind. Out of touch with the rhythm and blues, but now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News, whoa. Da New York è tutto, Mario Protero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!